Perché? Questa è la domanda che più spesso mi pongono. Pourquoi? Perché? A che scopo? Perché tu cammini sul filo? Perché tu sfidi il destino? Per me, camminare sul filo è la vita. Sì, la vita. Funamboli, cronache di un paese in equilibrio. Di Alessandro Milan, con Veronica Gentili e Leonardo Manera. Siamo qui, sono le 9:09 in punto, qui nella radio che dà l'ora ufficiale di tutto il mondo, Radio 24. Cara Veronica, lo sapevi questa cosa? La sapevi? No, non la sapevo. Sì. Bip, bip. Brip, sono le 9:09. Tutto il mondo si riallinea con questa. Ho capito, vedi? Tutto oggi... intorno a noi. Comunque è venerdì, questo lo vogliamo dire o no? È venerdì, questo ti fa felice perché... No, comunque è venerdì, segnaliamolo. Non devi dire questa frase. Lo aspettavo. Allora, è venerdì. Non posso nemmeno cantarla nel pezzo perché... No, se no arriva in ritardo. Parte il turpiloquio così, poi arriva in ritardo. È l'ultima puntata della settimana dei Funamboli. Oggi anche tantissimi temi che affronteremo. Cara Veronica, prima di parlare delle tematiche che dobbiamo affrontare... Sì. Quello che è successo ieri a Roma ci ha colpito molto. Perché, oggi abbiamo veramente un argomento che mi tocca particolarmente. Più che altro mi colpisce il non senso di quanto accaduto. Allora, ieri c'è stato il tentativo di assegnare una casa regolarmente assegnata tramite appunto le graduatorie al Trullo ad una famiglia italianissima, che composta da moglie, marito. Il Trullo è un quartiere alla periferia di Roma, ma neanche così tanto periferia. Chiaro, è periferia, sono 10 chilometri da Trastevere, che è il centro di Roma, però è periferia, quindi sicuramente un quartiere con mille difficoltà, disagi, per carità. Ma il problema è l'incongruenza. Questa casa veniva assegnata ad una famiglia italiana composta da mamma, papà e due figli, un figlio più piccolo e un figlio più grande, 12-21. La mamma è italo-etiope, d'accordo? Quindi ha la madre etiope e il papà italiano, cittadina italiana, vive qui dal 1991. Ieri un gruppo di militanti di Forza Nuova ha impedito l'ingresso di questa famiglia in maniera anche molto violenta. Ci sono stati scontri con la polizia. Vogliamo sentirlo, Veronica, perché sennò almeno sentiamo che cosa è successo. Io ti dico una cosa, ti conviene portata via, perché qui non entra, non esce, te lo dico, guarda, te lo giuro su tutte e quattro i miei figli, tutte e quattro, non esce e non entra, non solo io, tutto il popolo, non vale gli stranieri, perché c'è stava l'italiano dentro. Allora, c'è da dire che l'italiano che era dentro era una famiglia che aveva occupato abusivamente. No, c'era una ragazza di 28 anni con un bimbo, quindi per carità in difficoltà, che aveva occupato abusivamente la casa. Quindi esatto. Tutto quel criterio, no, che esiste solitamente, che gli stessi militanti di Forza Nuova sostengono, che le case non vadano occupate, che c'è bisogno di un'assegnazione regolare, in questo caso decade perché hanno visto una faccia nera. Allora, il punto è proprio questo. Cioè, la famiglia che deve regolarmente entrare in questa casa è una famiglia italiana, anche la donna che ha la pelle nera, assolutamente italiana. Questo, il fatto di avere la pelle nera ha suscitato queste proteste, cioè via gli stranieri, via gli extracomunitari, prima gli italiani, questo slogan che si sente ripetutamente dire. Il problema è che rischia di diventare un autogol, perché tutti quei ragionamenti che dicono prima gli italiani, non diamo le case a chi è abusivo e non è in lista d'attesa da tanto tempo, tutta l'avversione verso i profughi e i migranti, decade nel momento in cui ad una famiglia italiana, la cui unica variabile rispetto a una famiglia normale il colore della pelle di uno dei componenti, si ha una reazione di questo tipo, perché a questo punto decade ogni discorso, non è più credibile. Allora, diamo il numero di telefono 800 24 00 24. Volete parlare di quello che è un disagio che c'è sicuramente nella profondità del paese, si coglie, non è neanche il primo episodio di questo genere, a San Basilio era capitato. Vedi, c'è subito un ascoltatore, Roberto da Bergamo, dice: hanno fatto bene prima gli italiani. Ma che, ripeto, erano cioè la famiglia che deve entrare è italiana, poi dopodiché quando ci diranno prima gli italiani, noi diremo infatti erano italiani. appunto, prima gli italiani, infatti erano italiani. Ma prima gli italiani, infatti erano italiani, se proprio uno la vuol mettere sul prima gli italiani. Ma se pensate che comunque come principio sia prima gli italiani degli stranieri, chiamateci e poi ne discutiamo. Cara Vero, però iniziamo da un'altra cosa, perché c'è una notizia che è finita su tutti i giornali oggi nelle prime pagine e da cui vogliamo partire ad approfondire. Allora, oggi su tutti i giornali c'è questo titolo, lo riassumo dal Corriere della Sera: uccise il figlio 19enne ma non avrà l'ergastolo perché? Perché lo aveva adottato. Cioè, il 26 novembre 2013 una persona, si chiama Andrei Talpis, moldavo, 53 anni, torna a casa, ubriaco, aggredisce la moglie e poi uccide il figlio. In primo grado e secondo grado ha preso l'ergastolo. Poi in Cassazione hanno detto no, perché il figlio non era il suo figlio naturale, ma un figlio adottivo. Questo, sì, per il codice di procedura penale va a fare un ricalcolo della pena in ribasso. Detta così, completamente surreale. Lo so. Però noi diciamo che in queste settimane ci siamo anche trovati davanti a diverse così anomalie, come dire, cavilli della legge che portano davanti a situazioni abbastanza grottesche, e questa sembra essere un'altra. Questa sembra di essere così, però noi abbiamo i protagonisti, il nostro vizio è quello di cercare poi quelli che sono i protagonisti delle storie, a cominciare dall'avvocato Roberto Mete, che è il legale di Andrei Talpis. Avvocato Mete, grazie, buongiorno. Grazie di essere. Buongiorno a voi, buongiorno. Ci aiuta anche un procuratore presso il Tribunale per i minorenni di Milano, Ciro Cascone. Dottor Cascone, buongiorno, grazie. Buongiorno a voi. Allora, avvocato Mete, intanto ci aiuti a capire, cioè il codice di procedura penale prevede questo, cioè non equiparazione. La correggo subito, perché intanto il codice penale. Sì, il codice penale. Il codice di procedura penale regola i processi, la gestione del processo penale, il funzionamento del processo penale. In realtà è molto semplice questa vicenda. Io comprendo che possa essere tacciata in modo particolare, la sua collega ha detto che trattasi di una vicenda surreale, forse alla fine dei conti quando si parla della lettera della legge c'è poco di surreale, onestamente. Beh, appare un po' surreale. Qui non si tratta, no, beh, certo. Qui avvocata, non si tratta, a sentirla suona strana, lei ne converrà con noi, a sentirla dall'esterno. Suona strana perché c'è una certa differenza fra ordinamenti, nel senso che ormai da anni lo status del figlio adottivo è stato parificato al figlio legittimo. Appunto, sì. Però l'articolo, c'è una norma del codice penale che quella che disciplina le aggravanti per il reato di omicidio, ce ne sono diverse. Nel primo comma viene trattato l'omicidio commesso a carico del discendente, che prevede appunto come pena massima quella dell'ergastolo. Nel secondo comma, tra altre fattispecie, viene evidenziata il reato commesso a carico del figlio adottivo, che ha un trattamento di pena inferiore, perché prevede. Quindi, avvocato, il codice penale, che risale questa norma del codice penale? 1900, agli anni 30, del codice del 1931. Ma non è stata mai adeguata ai tempi, ecco. Ma questo da cosa dipende, avvocato, che non sia stata adeguata? Perché per altre leggi è accaduto, invece questa come mai non lo è stata? Ma questo bisognerebbe chiederlo al legislatore, non certo a un avvocato. Ah, è chiaro, lei ha fatto applicare. Lei ha fatto applicare. Forse c'era anche lo strumento della valutazione della legittimità costituzionale della norma, che poteva essere adottato anche in Cassazione, non certo da parte dell'avvocato difensore. No, tra l'altro, guardi, notiamo una cosa: questo, in primo grado, perché ieri ne abbiamo parlato, in primo grado è stato condannato al ergastolo perché lei mi ha detto non ci si era neanche accorti che il figlio fosse adottivo. È successo questo, la circostanza non è emersa palesemente, poi in realtà si leggeva tra le righe di una consulenza scientifica da parte di chi aveva studiato le tracce ematiche. Allora lì, con gli esami conseguenti, era venuto fuori che il ragazzo in realtà non era figlio naturale dell'imputato, ma era figlio adottivo. E quindi è vero che la l'eccezione è stata sollevata, l'argomento è stato sollevato per la prima volta innanzi alla Suprema Corte. Sì. E le dico che anche il Procuratore Generale ha fatto proprio questo motivo di ricorso, dicendo che effettivamente la lettera della legge è quella. No, ma è chiaro, diciamo, la norma di legge è così, è però ci aiuta anche il dottor Ciro Cascone a capire, perché mi risulta che la Corte Europea dei Diritti Umani, che ha dato nei confronti dell'Italia diversi pareri e diverse condanne per sentenze non eseguite, forse anche su questo si è pronunciato, cioè su questa mancata ammodernamento del codice penale. A questo punto, dottor Cascone, dobbiamo dire così? Ma sì, effettivamente la vicenda è stata ricostruita correttamente dal punto di vista normativo. Indubbiamente questo codice penale è stato scritto nel 1930 ed è stato poi adeguato, aggiornato man mano. Voglio dire, gli ultimi aggiornamenti sono proprio di quest'anno, il decreto legislativo 6, numero 6 del 2017, che ha ad esempio equiparato al coniuge la persona unita civilmente. Quindi, come vediamo, il legislatore si ricorda di tanto in tanto di aggiornare il codice e di renderlo più aderente ai valori riconosciuti oggi nella società. Il figlio adottivo è equiparato a tutti gli effetti al figlio biologico, ad esempio per altri reati, il tema di violenza sessuale. Questa norma credo che fosse nascosta in una piega di sistema, nessuno si è mai reso conto. Non se ne sono accorti. Ma da cosa sarà dipeso? Da una casistica magari molto esigua di questo genere di delitti? Credo sicuramente di sì, esatto. Questo potrebbe essere, cioè, di fronte magari a un caso di cronaca come questo. A mia memoria ho cercato anche, non è mai successo un caso del genere negli ultimi anni. Quindi oggi che succede è l'occasione giusta per ripensare a questa alla norma legge e a qualche altra norma che potrebbe esserci da adeguare. Tra l'altro chiariamo una cosa, perché questo con l'avvocato Mete e bisogna fare chiarezza. Non è che questa persona adesso, perché i giornali un po' o le persone colgono in maniera approssimativa quando vedono questi titoli, non è che questa persona sia libera, è in carcere. No, anzi, è tutto rimandato. Sono stati richiesti almeno 16 anni, esatto. Che non si scenda sotto i 16 cioè, anni. Bisogna riquantificare la pena alla luce di questa novità a partire da un minimo di 16 anni. Quindi... Però Alessandro, c'era un altro aspetto interessante in questa vicenda, che è anche, cioè, il tentativo di omicidio della moglie da parte di quest'uomo. Sì. Cioè, è stato ucciso il figlio e un tentativo di omicidio della moglie, e insomma l'uomo era molto ubriaco quando è tornato a casa e questo era l'ennesimo episodio di maltrattamento, e pare che la donna avesse fatto denuncia per questi maltrattamenti, denuncia alle quali non era seguito nulla, come purtroppo spesso accade, al punto che la donna ha ricorso alla Corte di Strasburgo per avere dei danni dalle autorità italiane ed ha vinto il ricorso. Questa sì è una cosa che avvocato Mete complica, esula un po' sulla questione dell'omicidio, però c'era anche infatti un tentato omicidio, credo, per il cui... Sì, cioè. Confermo, era... mi permetto di aggiungere una cosa, quello che ha riferito il procuratore un attimo fa. In effetti non c'erano dei precedenti particolari, tanto che nei motivi di ricorso non abbiamo potuto nemmeno invocare dei precedenti specifici sul punto della Corte di Cassazione. Sono stati evidenziati degli spunti dottrinari, anche in dottrina c'era una certa divergenza di vedute. C'è da dire che nella stragrande maggioranza studiosi di diritto penale si sono ancorati al principio di determinatezza della norma penale, quindi hanno evidenziato come un'adesione alla lettera della legge è sicuramente migliore nella fattispecie. Altri non sono d'accordo, sì, per un principio di omogeneità tra ordinamenti, no, eccetera, ma è chiaro, però comunque è questo. Per quanto riguarda la Corte Europea dei diritti, sì, dell'uomo, è vero, è stata pronunciata questa sentenza a carico dello Stato italiano, che quindi non voglio dire qualcuno di se ne è accorto, non ce ne siamo accorti noi a cambiare il codice penale, ma no, la Corte Europea dei diritti umani, sì, è un po' diverso, perché la Corte Europea dei diritti dell'uomo si è accorta che probabilmente lo Stato non ha garantito una difesa adeguata a questa donna della sicurezza, dell'incolumità, sì, di questa, sì, donna, sì, che aveva fatto delle denunce. In effetti poi se ne erano interessati anche i servizi sociali, ma alla fine dei conti li hanno lasciati un po' soli. Tra l'altro questa donna ha ricorso alla Corte di Strasburgo, ma dalla sentenza della Corte si suppone che molte donne, qualora decidessero di ricorrere per i vari avvisi che avevano dato le autorità e il non essere state ascoltate, sarebbero assolutamente prese sul serio dalla Corte Europea. Questo probabilmente, ovviamente bisognerà analizzare caso per caso, ma il principio la Corte lo ha stabilito. Certo. No, ma è chiaro. Noi intanto vi ringraziamo davvero perché ci avete aiutato a fare chiarezza. Con comunque la pensiate, certo che il titolo Veronica messo così, ucciso il figlio, non avrà l'ergastolo in quanto il figlio era adottato e non naturale, colpisce, ma questo l'abbia spiegato il motivo, è il succo della tra l'altro vicenda, mi è oscuro anche quale sia la ratio per cui nel 31 fecero una legge in cui il figlio adottivo non era equiparato al figlio naturale. Vabbè, anche nel 1931, perché comunque è un'anomalia, cioè nel momento in cui lo adotto ho deciso che mi prendo carico di questa persona come fosse figlia mia. Erano tempi un po' più bui, ecco, diciamo, dal punto di vista. Comunque ringraziamo il dottor Ciro Cascone e l'avvocato Roberto Mete. Guarda che sulla questione delle case, prima gli italiani o non prima gli italiani, erano italiani, ma adesso ne parliamo. Stanno arrivando una marea di telefonate all'800 24 00 24. C'è, vediamo un po', Maria Antonietta da Como. Buongiorno. Sì, buongiorno. Senta, in merito a questa cosa vorrei dire quello che penso. Allora, intanto da anni l'Italia è un paese non governato, non gestito. Perciò quello che è successo ieri è frutto di ignoranza, ma è anche frutto di questa non gestione della situazione immigratoria. Io, Maria Antonietta, sono d'accordo con lei. Sì, bene. Cioè, nel senso che purtroppo laddove uno Stato non riesce a gestire certe situazioni, purtroppo, come prima dicevo a Veronica, prima di andare in onda, questo è il mio parere, poi si finisce a fare, passatemi questo termine, la guerra tra poveri, la guerra tra gli ultimi. No, ma a parte quello, è il gradino inferiore, cioè la gente normale. Allora, a Como, per esempio, sono arrivati un sacco di emigranti, diciamo che non è gestita l'arrivo di questa gente, perciò noi abbiamo per le strade ragazzi, giovani, che passano il tempo al telefono, in bicicletta, seduti sulla panchina, con lo sguardo nel vuoto, perciò alienati perché sono, voglio dire, una persona normale che non ha niente da pensare, che non ha niente da fare. Dopo un po' si stufa, sì, è chiaro. No, ma sono anche dei potenziali delinquenti. O vanno in giro a chiedere l'elemosina, certo. O ce ne sono anche tanti di italiani, però, che stanno con lo sguardo alienato, sicuro, sulla panchina a guardare il cellulare. Ma certo, no, ma è chiaro, ma quella situazione produce disagio. Io non ne faccio una questione di colore della pelle o di razzismo, ne faccio una questione pur anche i nostri figli che non si sono inventati un lavoro perché sono stati, come dire, non, anche loro non gestiti, anche i nostri figli sono così, con lo sguardo nel vuoto e sono potenziali delinquenti oppure è gente che non ha niente da perdere. No, ma è chiaro, lei, Maria Antonietta, ci dice che situazioni di disagio o non gestite perché uno arriva dall'estero o perché, insomma, per motivi un po' più profondi, se vuole, generazionali, creano potenziali anche problemi, intanto per le persone stesse e per gli altri. E per poi la comunità. Chi paga è la popolazione. Va bene. Va bene, Maria Antonietta, no, così diamo spazio a tanti ascoltatori. C'è Hakim da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Eccoci, Hakim. Innanzitutto ringrazio Radio 24 per il servizio che fornisce, di cui sono proprio un ascoltatore. Complimenti intanto. Da dove, allora, da dove è originario lei? Perché allora, l'origine è del Marocco. Marocco. Io appunto mi sono sentito in dovere di chiamare per un motivo. Innanzitutto io sono un accanito sostenitore della libertà di espressione, ma a prescindere dal pensiero ideologico, politico, eccetera. Perché finché non si parla chiaramente non ci si può confrontare. Però, allacciandomi a questo discorso, allora, io sono il primo sostenitore della casa degli italiani, innanzitutto, perché noi siamo in Italia ed è giusto che le case venga data la priorità agli italiani, però ognuno si prende la sua responsabilità, uno dice la deve affidare solo all'etnia bianca, all'etnia caucasica, all'etnia, può dirlo, ci si confronta su un tavolo, ci si spiega, ci si parla, certo. Però andare a nascondersi dietro a questi discorsi è un po', diciamo, un po' mi irrita perché mi dà veramente fastidio. Io ad esempio parlo del mio caso, ma proprio in due secondi. Io praticamente l'Italia che mi ha scelto, non l'ho scelta inizialmente io, e io sono un patriota, cioè io l'Italia ce l'ho nel sangue, dovunque vado io mi professo italiano perché mi sento italiano al 100%, non parlo neanche la mia lingua d'origine, io parlo italiano e basta. Il mio problema, dovunque vado mi presento come italiano, a me aiuta anche la fisionomia, perché è una fisionomia quasi europoide, quindi diciamo che bene o male riesco, e, pur non avendo comunque la cittadinanza, sono in attesa di Ius Soli io, comunque sperando che arrivi. Come mai? Perché è un percorso un po' difficile, nel senso che io ad oggi io sono arrivato in Italia all'età di 6-7 anni, fino ai 18 anni non ho potuto scegliere. Non ho potuto fare la cittadinanza perché ho sempre studiato, mi sono laureato al Politecnico di Torino. Sì. Successivamente, per poter fare la cittadinanza dovevo lavorare, perché non avendo reddito dovevo lavorare, se continuavo a studiare, finito il percorso di studi mi avrebbero mandato a casa, che non so neanche dov'è, in Marocco in teoria, quindi ho dovuto continuare col permesso di soggiorno. Però perché però lei dice Hakim, prima la casa agli italiani. Io per esempio non la penso così, io penso ci sono delle regole. No, lui dice prima la casa ai cittadini italiani. Ai cittadini italiani, ma secondo me invece bisognerebbe avere il principio banale del prima la casa a chi è primo in graduatoria, o meglio, secondo le graduatorie dei comuni. E tra l'altro quelle persone erano abusive, quelle persone che erano dentro e quindi sono state tolte per far spazio a una famiglia che era in graduatoria del comune di Roma. Mi permetto di contraddirla solo mi permetto di contraddirla su questo punto, non per una questione che io non voglio che la casa non sia data a chi ne ha bisogno, però diciamo i politici dovrebbero gestirla in modo separato. Se una persona arriva da una situazione di disagio, quindi arriva dalla Siria e quant'altro, secondo me vanno fatti dei canali paralleli. Io so che ad esempio la Caritas o comunque la Chiesa assolve a una grandissima parte di questa situazione. No, ma è chiaro, situazione. Cioè lei dice non bisognerebbe, come dire, mettere, confluire la stessa tipo di graduatoria. È chiara, Hakim, la posizione di Hakim. Veronica. No, io capisco. Questa era un'interessante testimonianza rispetto al discorso dello Ius Soli, anche quella di Hakim, no? Rispetto a quello che dici tu, molte volte c'è chi non lo vuole, chi non ne ha necessità, c'è anche chi invece, gli esempi che facevamo in questi giorni, vuole, è nato qui, cresciuto qui, parla solo l'italiano, ha fatto tutto qui e dice vabbè, e non sono cittadino italiano, quindi questo rientra nei paradossi. Eppure europoide. Europoide è stato meraviglioso e quindi cerca di camuffare il fatto di avere delle fattezze marocchine, perché comunque un pochino somiglia ad un europeo. Vito da Sondrio, poi andiamo un attimo in pubblicità. Vito, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo puntualizzare una piccola cosa. Noi parliamo sempre l'italiano, non italiano, così, mescolando cittadinanza e nazionalità. In Russia, io ho mia moglie che è russa, e lei infatti ogni tanto resta sconvolta e dice, ma di che cosa parlate? Cioè, in Russia ci sono cittadini russi, ma più di 110 nazionalità. Cioè, il signore che ha parlato prima, un attimo prima di me, ha detto delle cose giustissime, anche lui e via. Lui è di nazionalità marocchina, è un cittadino italiano di nazionalità marocchina, secondo me, dal mio punto di vista. Quindi tutte queste confusioni facciamo. Okay. Proprio... Sul principio invece casa prima gli italiani o no, lei che ne pensa? Ecco, ma anche qui... No, di nazionalità italiana. Dovrebbero avere il coraggio di dire... Dovrebbero avere il coraggio di dire vogliamo che le case siano date ai cittadini di nazionalità italiana. Quindi non a quelli naturalizzati. Allora così toglierebbero ogni dubbio, che si prendono la razza. Non è vero, ma mi sembra che stia facendo una distinzione fondamentale, Vito. Perché è vero, uno si assume la responsabilità di dire preferisco dal punto di vista della nazionalità, per cui razziale, dare prima le case agli italiani, perché altrimenti coloro che sono di un'altra razza, anche se cittadini italiani, devono essere messi in una graduatoria. Ma è quello il motivo per cui sono sia onesti. È quello il motivo per cui sono intervenuti, perché di fronte al fatto che dicono guardate che questa donna che è nera nella pelle ma è italiana dovrebbe far decadere quel prima gli italiani, evidentemente la questione è prima la nazionalità italiana. L'audio che abbiamo sentito in cui loro gli dicono tornatene al tuo paese, quale paese? È esattamente questo che ci sfugge, dove deve tornare la signora che vive qui da anni, ha il marito qui, i figli qui, a tutti qui, dove va? Noi intanto dobbiamo andare in pubblicità, ma torniamo a funamboli tra poco, a funamboli. Ora abbiamo occupato i funamboli, noi 349-238-6666 per i vostri WhatsApp, oppure chiamateci all'800-24-0024. I funamboli. È una questione di lana caprina, perché 16 anni o ergastolo, dopo 8-10 anni al massimo sei a casina tua sul tuo divano con una birra che ti guardi la partita. Vai tranquillo. Adesso non esageriamo. Certo, però, cara Veronica, oggi in termini di giustizia c'è un'altra storia sui giornali che grida veramente vendetta. Questo ragazzo che era stato arrestato a Genova per 25 abusi. Mamma mia. Lo chiamavano il mostro dell'ascensore, perché aggrediva le ragazzine in ascensore a Genova. 25 minorenni abusate, è stato liberato dopo 8 anni, ha scontato la pena, sconti di pena, eccetera. È stato arrestato ed è lui probabilmente l'autore di una violenza su una tredicenne a Milano e forse di altri abusi su decine di adolescenti. Adesso si indaga a Milano. Questi sono i casi davanti ai quali non abbiamo nemmeno le parole per dire niente. Esatto. Toglieteci i microfoni, perché sennò diciamo cose sconvenienti. Allora, però, cara Veronica, qui c'è una vicenda da raccontare adesso con il prossimo funambolo, perché... Se questa è una vicenda che ci ridà un po' così, un attimo di speranza. Se questa vicenda, se questa sentenza che è stata applicata a favore di un hotel a Napoli venisse applicata a tutti gli italiani, e cioè vi danneggia l'emergenza rifiuti, avete diritto allo sconto sulla TARSU, la tassa sui rifiuti solidi urbani. Pensa a tutti i cittadini che già stanno prendendo appunti. Dove? Subito. Dove? Questo infatti è un momento importante. Prendere un bel block notice, prendere esatto. un memo e scrivere tutto. Più tardi andare a fare richiesta di mini tarsi, si chiama, sì, no? Sì, la mini tarsu, sì. Allora, vogliamo salutare Giovanni Arduino Ambrosi, che è ex proprietario dell'albergo Britannique, è stato anche past president di Federalberghi Napoli. Buongiorno e grazie di essere qui. Buongiorno a lei. Perché è lei che ha dato il via a questa causa, poi vinta dall'Hotel Britannique di Napoli, per cui hanno ridotto del 40% la TARSU. Motivazione? Dunque, guardi, in effetti la motivazione è che quando c'è un'assenza del servizio in forma prolungata, spetta questa riduzione nella misura del 60%, l'imposta, cioè la tassa, si riduce al 40%. Cari cittadini, avete preso nota? Laddove c'è un servizio prolungato non effettuato dalle aziende municipalizzate, potete ridurre del 60%. Lei capisce, Arduino, che stiamo dando una segnale lei di speranza. Lei capisce che può essere l'iniziatore di un qualcosa, di una catena, potrebbe essere a guida di un movimento da domani. Sì. Guardi che in effetti è solo l'applicazione di una norma. Noi abbiamo questa norma che stabilisce che nel caso in cui la spazzatura non venga rimossa in forma costante e permanente, in effetti spetta questa riduzione. Ma è sempre il concetto che differenzia la tassa dall'imposta. Mentre le imposte vanno pagate sempre, la tassa è esatto. un corrispettivo di un servizio reso. E questa è la base come dire, del diritto, della differenza tra tassa e imposta. La tassa si paga per un servizio che lo Stato o un'azienda, un municipio offre. Tra l'altro noi parliamo di un periodo, mi corregga se sbaglio, che è stato quello 2008. Dell'emergenza rifiuti a Napoli, in cui siamo finiti su tutti i giornali del mondo, no? Quindi un periodo abbastanza, insomma, eclatante. Sì, è quel periodo lì praticamente. Quindi evidentemente è una sentenza che si applica al caso specifico, però afferma questo principio generale che rispetto ad un servizio comunale o comunque statale non reso in forma permanente praticamente spetta, ma in questo caso in particolare c'è una norma che lo prevedeva. Quindi bisogna innanzitutto fare la richiesta, secondo che il fenomeno sia in forma permanente, questo naturalmente è lo specifico perché non ci siano delle false aspettative, insomma. No, è chiaro, bisogna arrivare fino in Cassazione. Se è arrivato in Cassazione. Ma perché la cosa molto interessante della sentenza della Cassazione è che dice che anche se non è responsabilità del comune in partenza, perché all'inizio il comune di Napoli ha replicato così, che c'era un commissario straordinario che era volto a capire come smaltire i rifiuti, ma se poi la situazione resta immutata e quindi anche il comune in qualche modo diventa correo della situazione, a quel punto si è legittimati, cioè lei è stato legittimato a pagare una TARSU ridotta. Lo ripeto perché è previsto dalla norma. Ma anche perché, certo, voglio dire, il commissario straordinario è comunque un'emanazione dello Stato, quello Stato che incassa la tassa e quindi deve rendere un servizio in cambio. Però certo. Arduino Ambrosi non si sente il possibile iniziatore di un affossamento dei conti di mezzi comuni, di metà dei comuni italiani, no? Aspetta, io penso che siccome noi in varie occasioni abbiamo cercato di parlare con i responsabili, ma purtroppo la risposta è sempre stata la stessa, che avevano dei problemi di bilancio, credo che certamente dovrebbe spingere i comuni ad essere più efficienti, cioè nel momento in cui si sa che una tassa non può essere incassata integralmente, bisogna che il municipio, il comune si dia da fare per organizzare bene i suoi servizi, insomma, ecco, queste. No, ma è chiaro, dal suo punto di vista di contribuente non fa una grinza. Io pago le tasse per avere un servizio, il servizio non mi viene fornito, io dico pago le tasse in maniera ridotta, no, non fa una piega dal punto di vista logico. C'è da dire che è stata una vicenda processuale lunga, quindi lunga, sì, 8 anni. Come al solito si può dire, non è che tutti possono permettersi di... Infatti la domanda sorge spontanea, di... ma il signore è parente di Orietta Berti? Esatto, ha visto Orietta Berti il caso, non so, forse se ha letto, di Orietta Berti, celebre cantante che ha fatto causa allo Stato e gli è stato restituito l'IRAP degli ultimi, non so quanti 20 anni. 20 anni. Sì. Era stata eletta. È una persona resistente. Esatto, no. E anche lei è stato abbastanza stoico, quindi questi Davide contro Golia che abbiamo ridefinito così, volevo sapere se c'era un legame di parentela. Ecco. No, perché sulla parentela Orietta Berti abbiamo colto un po' di suo smarrimento. No, ho sentito un attimo di silenzio della serie, cosa vorrà dire? Guardi, semplicemente questo, che quando si pensa di aver ragione non bisogna mai demordere, mai mollare la presa, tutto qua. E lei ce l'ha fatta, noi intanto molto la ringraziamo saggio. Davvero, Giovanni Arduino Ambrosi, past president Federalberghi Napoli e ex proprietario dell'albergo Britannique, che ha portato avanti questa causa e l'ha vinta alla fine, no? Anche Vedi, questo ogni tanto ha ragione. Se uno è convinto di aver ragione, non deve demordere. La vinta prima contro o lo poi. Stato, poi, quindi un qualcosa. Vincere di... contro lo Stato. No, è un qualcosa di abbastanza epocale. Adesso diamo la parola ad Angelo da Pordenone, perché mi hai fatto venire in mente che dovevamo leggere una storia legata a Orietta Berti, che ci ha mandato un ascoltatore straordinario. Ti ho dato anche l'assist, diciamolo. Angelo, intanto, la recupero, Angelo. Pronto? Sì. Angelo, pronto. Eccoci. Buongiorno, io volevo tornare, se era possibile, sì, sulla sentenza dell'annullamento dell'ergastolo a quel signore che ha adottato. Certo. Bambino. Non è stato annullato, cioè annullato. No, annullato l'ergastolo. Sì, però sì. Annullato l'ergastolo, sì, poi... È tornato in corte d'appello. Sì. Allora, quello che voglio dire io è questo. La sua collaboratrice ha detto che questa qua è una situazione surreale. Io direi vergognosa. E le spiego perché. Io sono nonno, ho 68 anni, sono nonno di una bambina adottata, che è una meraviglia. Allora, guardiamo un pochino le procedure quali sono. Come mai lo Stato mi impone di firmare, giustamente, se accetto la bambina o l'adottando, la metto nell'asse ereditaria, tutto quello che va bene, poi succede un patatrac del genere e non sono più condannabile perché non è figlio, è figlio adottivo ma non è figlio, sì, non è naturale. Che però vede, Angelo, no, per ribadire, non è che non è condannabile, cioè ricalcolano senza questa aggravante la pena, ma non è che questo volevo dire l'ergastolo annullato, sì annullato, ma verrà ricalcolata una pena con un minimo di 19 anni, potrebbe prenderne, certo, 30, che di fatto è l'ergastolo, perché si sa perché che l'ergastolo scatta in automatico all'uccisione di un figlio nel momento in cui c'è questa anomalia legislativa, pare che non sia un ergastolo vero e proprio. Però è chiaro comunque, che dal punto di vista della comprensione razionale, anche se ci sforziamo, c'è una logica. Si coglie così, ma Angelo, infatti la ringraziamo. Eccola qua però la mail che abbiamo recuperato. Un libero professionista di Montebelluna, dopo aver ascoltato l'intervista a Orietta Berti, ha detto: io da geometra ce l'ho fatta, ho chiesto e preteso i tributi IRAP pagati dal 97, sono andato fino in appello, ho vinto contro il rifiuto dell'agenzia al rimborso completo, i giudici hanno accolto tutto, sono andato in Cassazione, ho vinto anche questo, in tutto ce l'ho messa 2 anni, l'agenzia delle entrate non mi pagava, al che gli ho intimati di pagare entro 20 giorni e finalmente lo hanno fatto, altrimenti mi promettevo di fare una nuova istanza al giudice PD ignorando i beni dell'Agenzia delle Entrate. E questo è il giustiziere della notte. Ma no, ma ha fatto bene. Cioè, capite che si può fare da Dario, non dico il cognome, comunque da Montebelluna in provincia di Treviso, ci ha scritto questa accalorata lettera a dire: ma tu che dici si può fare? Ti sei mai messo a fare queste battaglie contro il fisco? No, no, no, io no. No, io, tu sei amico del fisco, guardalo subito in Lido. Io sono di quelli alla maniera, io sono di quelli che il commercialista pago, dice paga. Il commercialista dice paghiamo, questa paghiamo, la paghiamo. Paghiamo, no, Leonardo hai intanto pagato tasse. Intanto paghiamo, poi vediamo. Bisogna fare così, intanto paghiamo, poi vediamo. Buongiorno, io arrivo dopo. Buongiorno, hai dormito bene, Leo? Ma abbastanza, nel ieri complesso. Ieri aveva un dolore intercostale. Mi è passato nel pomeriggio. Ecco, tutto a posto? Sì, dolore intercostale è pericolosissimo, è come nel romanzo di Tolstoi La morte di Ivan Ilic, il dolore al fianco. Non dire queste cose, mamma mia. Adesso ti tocca un'ora, Alessandro. L'ho letto, Ivan Ilic. L'hai letto? L'ho Ivan letto. Ilic sapeva che stava morendo. Tutto per un dolorino al fianco. Attenzione, Leo. Stamattina tutti argomenti belli, allegri, senza tensione. Meno male ma che è venerdì, ti ho detto. Dopo il venerdì, dai, si può fare. Andiamo al traffico, però. I funamboli. E allora siamo qua alle 9:48 minuti. Eccolo qua. Vi ho sentiti tesi stamattina, anche gli ascoltatori molto arrabbiati. E questo è un argomento che accende, Leo, hai visto? Sì, ma quest'anno ci sono le elezioni, le leggi le fa il legislatore, anche le modifiche del codice penale. Quindi poi si può andare a votare in quella direzione per chi pensa che corrisponda. Ho capito, ma non so, ti faccio un esempio. Tu, secondo te la gente voterà per sapere chi vuole cambiare la norma del codice penale che non equipara al momento i figli legittimi? Si sa qual è l'orientamento di fondo, no? Alla fine abbiamo l'unico strumento che abbiamo noi è il voto, caro Alessandro. È chiaro. Infatti, per quello bisogna andarci a votare, perché per quello, è l'unica. Per quello io raramente voto. È per questo che ho premesso: per quello bisogna andarci a votare. Era sempre una stoccata. Tanto qui, no, lo devo dire, mi danno del grillino da anni. C'ho questa patente del grillino in fronte. Ho deciso di mettere come lettera scritta. Che io non mi spiego, lo sai che tutte le volte io non me ne faccio una ragione. Allora, come si fa a dare del grillino a te? Ieri hanno detto: hanno fatto bene a toglierti dalla mattina presto, che sei un renziano schifoso. Poi mi danno qui del grillino in azienda. Io praticamente, insomma, cioè, sembra che ho le 5 stelle in fronte, vado in giro così e mi dico: tu sei grillino, si sa, tutti mi dicono sei grillino. Ma in realtà io non so neanche che le cosa mangerò in domani. Fronte a te già le 5 stelle. No, sei, appunto, sei, giusto in quel senso. Sei gabberiano, sai che Gabber smise di votare nel 74 perché pensavo che la politica non avesse più nessuna possibilità di cambiare le cose. Io nel 74 avevo 4 anni, quindi il problema non reputo per esempio Enrico Mentana, che dichiaratamente non vota da anni, una persona non meritevole di... ma comunque insomma andiamo comunque quindi... cari ascoltatori di Radio 24, siamo entrati in pieno nell'autunno. Questa settimana sono ricominciati tutti i programmi, anche televisivi, anche importanti, Striscia la Notizia, e io vorrei un po' alleggerire parlando del mio programma preferito, che è Cucine da Incubo, col mio eroe preferito, lo chef Cannavacciuolo. Allora spieghiamo per chi non lo conosce com'è il programma. Lo chef Cannavacciuolo arriva in un ristorante che ha chiesto il suo aiuto e assaggia qualcuno dei piatti che fanno in quel ristorante. Sono sempre piatti immangiabili: spaghetti alla carbonara fatti con le uova di galline malate, impepata di cozze vecchie, che proprio sulla confezione c'è scritto cozze vecchie, salmonella impanata. Ma non solo i piatti sono immangiabili, anche il locale è sporco. Il cuoco prende l'unto che c'è sulla cappa della cucina e lo usa come gel per i capelli. Non solo i camerieri non parlano col cuoco, ma c'è degrado, abbandono, unto, amarezza, astio in cucina. Ma lo chef Cannavacciuolo arriva in questo locale e chiede di assaggiare qualche piatto. Non se ne salva neanche uno. Nel frattempo nota la formaggera che si muove da sola sul tavolo, perché sotto ci sono le formiche che la spostano. Cannavacciuolo assaggia anche una delle formiche e dice che sono meglio le formiche dei cibi che prepara lo chef del locale. Cannavacciuolo... Te ne hai perso uno, Peter. Questo è un lavoro, proprio una sinfonia, sì, è diventata. Cannavacciuolo sgrida Cannavacciuolo sgrida lo chef del locale e torna di sera per vedere come va il servizio con i clienti. I piatti escono dalla cucina in ritardo, a volte non escono proprio perché lo chef del locale se ne frega delle comande. In più, lo chef del locale quando cucina copre tutti i sapori con la panna o con la besciamella, piatti immangiabili. Se qualcuno dei clienti si lamenta perché sta aspettando troppo, lo chef del locale per farsi perdonare manda al tavolo direttamente un vassoio di besciamella. I clienti se ne vanno senza pagare, mentre in cucina camerieri e chef del locale si ubriacano, discutono ad alta voce. E qui, finalmente, interviene il mio eroe, Cannavacciuolo! Prima individua i problemi umani tra le persone che lavorano nel locale e li risolve. Per esempio, cuoco e camerieri non si parlano più da anni. Lui li porta insieme un giorno in campagna a raccogliere le pere oppure a schiacciare le noci. E di colpo tutti i problemi si risolvono. Si ritrova di colpo l'armonia che sembrava persa per sempre. C'è gente che fa anni di terapia dall'analista per risolvere i problemi umani senza riuscirci. E invece Cannavacciuolo! In mezza giornata risolve tutto. Mezza giornata di team building e una pacca sulla schiena. Ritrovata l'armonia umana, Cannavacciuolo in un'altra mezza giornata ristruttura completamente il ristorante, che di colpo diventa lucido, splendente, trendy. Che una volta per ristrutturare un bilocale ci ho messo 6 mesi litigando sempre con l'idraulico. Invece Cannavacciuolo ristruttura tutti i ristoranti in mezza giornata. Poi Cannavacciuolo reinventa il menù del locale, che tra l'altro, insomma, dopo Cannavacciuolo insegna... Basta, Peter Bescapè, maledetto! Mi hai rotto i maroni, Peter! Cannavacciuolo insegna allo chef del locale a cucinare. Prima lo chef del locale non sapeva fare neanche gli spaghetti scotti. E di colpo, dopo l'intervento di Cannavacciuolo, diventa uno da guida Michelin! Mentre le formiche spontaneamente se ne vanno dalla formaggera perché hanno capito che le cose sono cambiate. Ovviamente, quando dopo un solo giorno di ristrutturazione il ristorante riapre al pubblico, è un successo. I clienti applaudono, vanno via contenti e tutto bene quel che finisce bene. Ormai ho deciso. Alle prossime lezioni voterò Cannavacciuolo! Oh, vedete, mi hai quasi convinto per tornare alle urne con grande entusiasmo. Poi ieri ho detto che la TV è finta, eh? In un giorno fa tutto. Risolve problemi umani, ristruttura il locale, insegna lo chef a cucinare. È il mio eroe, può risolvere i problemi anche della politica italiana. Cannavacciuolo, secondo me. Sono il signor Wolf. Risolvo problemi. Wolf e Cannavacciuolo potrebbero fare una lista. Comunque era sabotaggio a Manera quello di oggi, eh? Diciamo che Peter Bescapè ha voluto fare sabotaggio a Manera. Sì. Ringraziamo gli ascoltatori, grande Manera, sei immenso Manera, ascolto Radio 24 ore e ore al giorno, tranne quando arriva Manera. Giusto, condivido. Però adesso lo placchiamo perché c'è il giornale radio, quindi puoi tornare, caro ascoltatore. Siamo tornati alla norma. No, sei immenso. Claudio da Reggio Emilia ti scrive: caro Leo, oggi c'è Michele da Firenze che è scomparso. No, ma poi non leggere i nomi di altri uomini che gli mandano messaggi. Può seccarsi, Michele. Dai, c'è Francesco da Padova, prima del giornale radio. Francesco, sia conciso però, per favore, grazie. Francesco, ecco, talmente conciso che è proprio che Francesco, si è buttato. Francesco. Più conciso di così non si può. Francesco, mandiamo Cannavacciuolo a Padova per risolvere il problema della linea telefonica. Francesco. Dai, cara Veronica, nella seconda parte, nella seconda ora dei funamboli abbiamo oggi tante abbiamo altre un storie. Funambolo, veramente funambolo, ma l'invidia collettiva sarà tantissima. Un clociaro barbone senza fissa dimora diventato milionario. Ha scritto una scaletta, miliardario in euro, no, milionario. pare ha ereditato, sai quelle cose, è morta una tua vecchia zia, hai ereditato quelle cose che uno pensa che succedano soltanto nelle favole, nei romanzi, no? E ogni tanto succede. Noi siamo riusciti a beccare il funambolo che è diventato milionario da che era clochard di strada. Tra poco, state con noi. Donna, vuoi far accettare il pesce a tuo figlio che lo rifiuta costantemente in modo pedante e irritante? Allora proponigli di assaggiare i bastoncini del sottotenente, i bastoncini tipo capitano, ma con il più ampio strato di panatura e la più irrisoria quantità di merluzzo, ideali anche per essere accettati da chi odia il pesce. Bastoncini del sottotenente. Fan contenti la mamma, fan contenti i bambini, fan contenti i merluzzi. Il segnale orario vi è offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. I funamboli. ricco del mondo. Il più ricco! Il più ricco! Siete? Sono Paul Getty Junior. Io ero l'uomo più ricco del mondo. Ma non mi senti sbraitare e farneticare per questo, vero? No! Ho accettato la mia sconfitta! Tu non sei Paul Getty Junior. Sei solo un piccolo vagabondo patetico e malato. D'altro canto, io sono Goddard Bolt, un vero gigante della finanza. Ho accumulato 6 miliardi e 400 milioni di dollari. E io invece ne ho accumulati 6 e 5. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. Vita da cani, Mel Brooks. Beh, io l'ho visto, c'era una scena fantastica di questi milionari o miliardari all'epoca che finiscono sull'astrico. Mel Brooks è stato il creatore della parodia al cinema, insomma, quello che ha fatto tante parodie cinematografiche, uno dei primi. È stato un colosso assoluto Mel Brooks. C'era anche una di queste scene in cui chiedeva l'elemosina per strada, epocale, no? Cercava di cantare in maniera improvvisata una canzoncina, ma nessuno gli dava neanche una monetina. Perché sono le 18 minuti, sono tornati i funamboli, Stiamo con voi fino alle 11, lo sapevi Veronica? Ti tocca, no, anche davvero? Oggi. Ti tocca anche oggi. Io pensavo di andare via tra 5 minuti. Lo so, volevi fare un weekend lunghissimo. Un weekend super lungo. Caro Leonardo Manera, tra l'altro dobbiamo fare un annuncio di Leonardo che stasera è in scena a Milano. Cos'è che vai a fare? Ecco, la banda Faber, che è una banda di 30 elementi, una vera banda cittadina. Cantiamo le canzoni di Gabber e Iannacci. Io canto Iannacci, poi c'è un cantante che si chiama Ugo Frialdi che canta le canzoni di Gabber. Siamo in centro, in Piazza del Cannone, Piazza Castello praticamente. Sì, dove c'è il castello. No, che di dispiacere, non lo posso vedere. Puoi dirci anche l'orario oppure ci dobbiamo presentare dalle 14 alle 21 e l'ingresso è gratuito. Ribadisco questa parola, gratuito. Hai capito? Ci puoi andare persino tu, Ale. Sì, infatti. Comunque alle 10:09 minuti è il momento di annunciare la storia che è stata un po' preannunciata da Vita da Cani, perché è il momento del... Il funambolo del giorno. Nome: Gianni. Cognome: Di Rocco. Età: 47 anni. Laureato in sociologia, non ama lavorare. Dopo aver vissuto per 12 anni da clochard, è diventato ricco grazie all'eredità di una zia. Ragazzi, questo i funambolismi se ne intende. Chissà perché ste zie li hanno sempre gli altri. No, ma pensa già all'invidia, proprio quella belluina che sta già scattando in tutti gli ascoltatori. No, ma in realtà Gianni Di Rocco, come no? Che è con sì, noi. Sì, sì, dillo, certo, dillo, è inutile che fai il buonista. Ma certo che ci sarà. Siamo strasudiamo invidia. Gianni Di Rocco, buongiorno, come va? Bene, grazie. Gianni Di Rocco è diventato famoso perché da clochard, quanti anni clochard? Parecchi anni, quindi 15 anni. 15 anni, passati dove? A Rapallo, se non sbaglio. No, a Rapallo gli ultimi 10 anni. E prima? Pronto, mi sente? Sì, benissimo Gianni. Ah, grazie. E prima invece? Prima sono stato a Milano, Torino, Roma, ci devo pagare un po'. Ma Gianni, tu ti sei laureato a Urbino in sociologia, ho visto. Sì. E poi da lì che è successo? Come mai non sei riuscito a fare nulla? Sei finito per strada? È così la vita. Purtroppo sono mancati i miei genitori e poi poteva girare, andare in giro. Non lo so, nemmeno io. È una cosa un po' inspiegabile. Ma ti era capitato di fare dei lavori dopo la laurea? Sì, però non... ho lasciato, non piaceva più girare, sa? Però facciamo così Gianni, perché tra l'altro il cellulare prende un po' male, ti richiamiamo, ma ti richiamiamo nel giro di 20 secondi, metti giù. Allora, la questione è questa, che tra l'altro Gianni Di Rocco, quando sono morti i genitori, adesso ce lo spiegherà, ha ereditato anche dal padre penso anche un cospicuo gruzzoletto che credo si sia giocato. E lì ci ricolleghiamo con la puntata di due giorni fa gioco d'azzardo. Si sia giocato nel bel vivere, chiamiamolo così, no? Nel modo di vivere molto godereccio. E quindi è in pratica la seconda eredità ora che prende. Comunque l'abbiamo richiamato. Mi sa, però è molto più cospicua della prima. Che Gianni, vediamo se ti sentiamo un po' meglio. Come va? Pronto? Ecco, adesso ci sentiamo meglio. Dicevamo, quando sono morti i genitori, hai già ereditato un bel gruzzo. Sì, avevo ereditato, sì. Ma non era tanto come questo della zia? No, non come adesso. E che ne hai fatto di quei soldi? Cosa ho fatto? L'ho perferato. Ma l'hai sperperati o li hai giocati? Perché no, giocati no, così. No. In che cosa, in che cosa li hai sperperati, così, senza voler essere invadente? Andando in giro. Hai viaggiato? Mm-hmm. Sì, sì. Ma e poi la vita da clochard, cioè com'è andata? Stavi, vivevi, avevi trovato una tua dimensione? Poi quando finiscono i soldini, cosa, ti ritrovi così, in mezzo, non sai più cosa fare. Che fai? O fai il delinquente, oppure io siccome non sono portato, quindi ho optato per la seconda. Per la seconda, cioè vivere per strada chiedendo l'aiuto delle persone. Chiedendo sì, ho chiesto a milioni di persone, tutta l'Italia ho chiesto, tutta l'Europa. Ma tu avevi rinunciato comunque a qualunque genere di vita alternativa, lavoro? Cioè ti eri rassegnato ad essere così, a vivere per la strada? Purtroppo quando si vive in mezzo alla strada, se uno va a chiedere, cioè, che lavoro si fa? Nessuno ti dà lavoro, perché a prescindere da tutto, già ti etichettano, sai, una persona di strada. Ad esempio vai a fare il cameriere, ma come fai se non ti puoi lavare, se non puoi... Certo. Cioè, mancano proprio le basi, capito? Però voglio dire, da questa storia, cioè, sì, ci sono anche persone, Gianni, che, sì, che criticano questo, cioè quasi dicono, ma come, avevi già avuto una fortuna, comunque la possibilità di ereditare, sì, dei soldi e li hai scialacquati, li hai persi. Sì. Adesso, sì, una nuova eredità di una zia che è morta, sì, e ti ha lasciato, sì, un'eredità. Cioè, voglio dire, una strafortuna, però uno se la deve anche meritare, se la deve conquistare questa fortuna, no? Questo assioma, sì, non conquistare, non si capisce bene che facciamo, cosa intenda Alessandro quando dice uno si conquista la fortuna, ma non è chiaro nemmeno a me. Per me è una parola che non, è cieca, non si dice. È caso, ma è no, caso. Ho capito, però leggo i messaggi. Hai sperperato l'eredità del padre e non volevi lavorare. Non, insomma, che messaggi sono? Ma, sono messaggi non brutti, però purtroppo quando uno è giovane, cioè, non capisce la veri valori della vita, mi sono ritrovato così con i soldini, non pensavo, io lo chiamo sempre crisi di un delirio di grandezza. Senti, ma adesso sì, pensi di... pensavo che la vita, invece no, la vita è fatta di lavoro, cioè io non sono da prendere da buon esempio per il giovane. No, questo volevo dire, certo. No, ma io non mi permettevo di dirlo io. Adesso no, poteva dirlo tranquillamente. Pensi di sperperare anche la nuova eredità della zia? Tutti fossero come me, il mondo. Senti, ma purtroppo pensi di sperperare anche questa nuova eredità della zia? No, ma, assolutamente no. Ma dai, un no, po' di spese, però adesso non metterti, no, a fare una vita monacale, vai qualche volta al casino. Però. Gianni, noi pensavamo che potresti prendere noi tre come tutori legali. Che ne pensi? Ci pensiamo noi a gestire il tuo patrimonio. Guarda, siamo oculatissimi, Ne ho già tanti, grazie. Immagino, c'è la fila dei tutori legali adesso, sì, ci pensano, sì, sì, tutti loro a gestirlo. Mamma mia. Ti posso chiedere sapere una cosa? Sei stato triste? Hai avuto momenti di depressione? Oppure? Ma scherzi. Sì. Sono momenti bui. Ma quali momenti bui? Quelli? Ritrovarsi, che ne so, il giorno di Natale, dove così, il giorno di Pasqua senza nessuno, senza... E tra l'altro i giorni quando festa, sono... Non c'è più la famiglia, non c'è più difficile, certo. Ma hai conosciuto quando facevi clochard qualcuno che poi ti è rimasto amico, che magari vedi ancora, oppure no? Sì, sì, mm-hmm, tante persone. E tante sono anche mancate. Certo. Ma c'è qualcuno a cui stai dando una mano tu adesso? Qualche persona adesso di strada? Attualmente no, perché ancora l'iter burocratico, purtroppo, l'Italia è così. Ah, ancora non ce li hai, certo. Un po' di snellimento per queste pratiche, perché è un disastro, guarda. Però qualche vecchio compagno di bevute per la strada a cui hai in mente di dare una mano? Cioè... Bevute in che senso? Io non bevo, sennò... Ah, beh, ecco, vedi. Però, se no... Io mi sono salvato, facevo lì, certo. Io sono vivo per miracolo. Perché dici, se avessi bevuto sarebbe stato... Perché purtroppo la strada, poi io ho visto gente normale, e poi dopo un anno è cristiana, però. È diventata... ha cominciato col bere, con la droga, con... Per non pensare, io invece, certo, no, io mi sono, cioè, hai mantenuto un equilibrio, mantenuto l'equilibrio, la mia dignità, perché è inutile, poi è la fine, però. si può sapere, Gianni, si può sapere quanto, sì, a quanto ammonta l'eredità? No, per carità, non parliamo di questo. Ma che domande fa? Adesso dici solo questa cosa, quando riceverai l'eredità? Sì, aiuterò. Non sto dicendo, si sto chiedendo, hai un'idea della prima cosa che farai con i soldi ricevuti? Insomma, che cosa vorresti regalarti? Non lo so. Un idromassaggio? Non lo so, caro. Perché varie volte hai detto io non sono fatto per lavorare? Anche questo è un messaggio... Sì, è un messaggio un po' strano, sì, dipende dalla mia psiche forse, non lo so. Non che non sono fatto per lavorare, non sono fatto per, lavori normali, rientrare nel normale, che ne so, lavorare in fabbrica. Lo sai che adesso si scatenano i messaggi dagli ascoltatori? Esatto, gli ascoltatori a dire che bello! Io posso lavorare... Cioè, se uno mi mette a fare il cassiere, nemmeno lo faccio, capito? Cioè, non sono fatto così, dai. Ma questa seconda vita, cioè la seconda vita di Gianni, come pensiamo di svolgerla? A grandi linee, a qualcosa ti sarà venuto in mente, Gianni? Eh sì, che mi è venuto in mente, come no? Che vuoi fare? Vuoi viaggiare? Vuoi fare un sacco di bambini e ripopolare il paese? No, per carità. I bambini no. Che, lavorare no, sociologia, la vecchia laurea la vogliamo risfoderare? No, sì, sono stato contattato, ma forse sì, in quel campo lì sì. Insomma, vuoi cazzeggiare, diciamo, questo è il tuo obiettivo? No, cazzeggiare no. però insomma, adesso io non capisco, sono il primo ad aver fatto delle critiche, ma adesso la gente si scatena, date la parola a un irresponsabile, ma chi può giudicare chi è responsabile? Diamo la parola a un vero funambolo, uno che nella vita ha avuto l'eredità del padre e ha detto l'ho perduta, e poi ho vissuto 12 anni da clochard, una vita molto, ma molto dura. Anche di più. Ma io sono stato sempre così, anche da piccolino, sono estroverso di natura, capito? Però insomma, estroverso è bella come definizione. Io guardavo il treno, che ne so, era a Milano, guardavo Barcellona, mi mettevo sul treno senza, una volta sono partito con 50 centesimi e sono andato a Barcellona, sono stato 7 mesi, non sono morto, ho mangiato, mi sono divertito e adesso? Cioè, guarda che è assurdo, è anche d'inverno, era d'inverno, sono partito. Vabbè, a Barcellona si stava bene. Dice vai a Mosca in inverno a fare così. Ma io sono stato anche a Berlino 9 mesi. Sempre vita di strada col freddo di Berlino? Col freddo di Berlino. Una cosa che però ci tengo a dire e concludere, Gianni Di Rocco ha sempre detto: io non ho mai neanche preso 10 centesimi che non mi fossero stati dati in maniera generosa. Infatti ci sono anche messaggi che dicono: non capisco chi giudica Gianni, in fondo erano soldi suoi e non ha rubato niente a nessuno. Io ho fatto del male a me stesso e basta. Questo è innegabile, insomma, non è che tu abbia fatto niente di male a nessuno. Non ho mai rubato, io non ho un precedente penale, quindi non. Anche questo è simile. Non credo nella cattiveria umana, ecco perché forse sono un po' così. Un po' naif. Sì, va bene, è una storia da vita proprio sul filo, ecco. Il funambolo naif abbiamo trovato. Un funambolo naif. Però responsabile. Beh, insomma, adesso la gestione del patrimoniale magari è un po' da rivedere sulla responsabilità. Però, Gianni abbiamo. Comunque, l'importante adesso è ricordarsi degli amici, e per amici intendo noi. Ecco, vedi, subito. Poi ero io quello che faceva le domande impertinenti su quanto è. Perché tu vuoi subito fare polemica che ci fai coi soldi, la gestione del denaro, allora tu non hai senso della responsabilità. Io dico aiutiamo gli amici, cerchiamo di volerci bene tra di noi. Dobbiamo andare al traffico. Axerta, indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta i funamboli. I just need some place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me? Allora, caro Leonardo, cosa volevi dire della storia di Gianni Di Rocco? Ti ha dato una morale? Mi ha ricordato lasciare anche tu Liban, Gianni Di Rocco, no? Mi ha ricordato un ragazzo cui diedi un passaggio anni fa, conosciuto in autogrill a Danagni. E io gli chiesi, così parlando, sì, vicino a Roma, e io gli chiesi, dove se non te porti non mangi, si dice così. E io gli chiesi, tu cosa fai per vivere? E lui mi rispose, il fantasista. Cioè pensava una cosa tipo clown, eccetera. Invece no, il fantasista nel senso che mi arrangio, faccio di qua, faccio di là. E poi mi disse, ogni tanto apro appartamenti. Apro appartamenti, è straordinario. Qui non voglio indagare cosa voglia significare, ma posso intuirlo. Il nostro ospite funambolo ha detto che dal punto di vista penale invece è assolutamente incensurato. Incensurato. Allora, invece noi, cara Veronica, caro Leonardo, volevamo andare ad Alessandria, che è la città di Umberto Eco, ma soprattutto di Gianni Rivera. Cioè, voglio dire, diciamolo, il conto è un po' scherzo. Il cuore scherzo. Milanista viene fuori. Ristabiliamo la scala di priorità, dici, no? No, perché c'è una disfida sulla possibilità di intitolare un liceo, che in questo momento è intitolato al grande matematico Giovanni Plana, a Umberto Eco, recentemente scomparso, grande scrittore, filosofo, docente. Beh, Umberto Eco, insomma, il nome della rosa. Non c'è bisogno di dire molto di più. Che cosa succede? Che intanto salutiamo l'ex sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa. Buongiorno. Buongiorno. Che buongiorno. Incidentalmente è insegnante in quel liceo lì, liceo Giovanni Plana. È la mia cattedra di italiano e latino. Sì. Ah, quindi proprio italiano latino, quindi un maestro della semiotica come Umberto Eco. Andiamo a Caschiava Fagiuolo. Sì. E che sta succedendo lì ad Alessandria? No, ma insomma, per Alessandria Umberto Eco. È stato un personaggio fortemente riconosciuto come uomo legato alla sua città, alla sua terra, lo è sempre stato. E Umberto Eco non ha bisogno di intitolazioni per essere ricordato, perché è famoso in tutto il mondo, è un'occasione per Alessandria, casomai. All'indomani della sua morte, io ero ancora sindaco, naturalmente mi sono posta il problema, ma anche l'opportunità di intitolare qualcosa. E avevo fatto una proposta, non considerando la possibilità del nome alla scuola, avevo fatto la proposta di intitolare a lui la biblioteca, che oggi è intitolata ad un sindaco che, diciamo, con la biblioteca aveva poco a che fare, e spostare l'intitolazione della biblioteca al sindaco al ponte. Comunque questa cosa qui doveva essere frutto di una condivisione. Poi è nata la proposta della scuola, anche perché Eco è un ex allievo di quella scuola, è certamente Eco ha frequentato il Plana. Sì. E il preside, insieme con gli insegnanti nel collegio docente, il consiglio di istituto, io non ero ancora rientrata in servizio, ha fatto questa proposta, perché in realtà il liceo ginnasio Plana già non si chiama più così, perché dal 2001 questa scuola è diventato il polo umanistico della città di Alessandria, il più grande della provincia, e insieme a diversi indirizzi, il classico, il coreutico, il musicale, e ubicato in un altro istituto, il liceo delle scienze umane. Vabbè, allora, ma qual è il problema? Cioè, pare il sindaco attuale leghista non vuole. È contrario. Ha espresso per tramite di una delibera, quindi con un atto formale, la contrarietà. Ora, le motivazioni sono che naturalmente il liceo Plana è un liceo storico, il nome del grande matematico, tutto vero, però è anche vero che c'è chi pensa a ragioni ideologiche invece, no? Ma io spero di no, perché poi ideologiche perché? Anche io volevo capire bene in che termini. Molto stupido se fossero per ragioni ideologiche. Credo che ci sia molta superficialità e scarsa considerazione nei confronti di un grande intellettuale come Umberto Eco, ma la motivazione più forte, oltre che dare un segno di unitarietà ad un polo che è appunto il polo umanistico, risiede nel fatto che altre città intitoleranno una scuola a Umberto Eco o qualche cosa ad Umberto Eco. La sua città natale, che per prima poteva arrivare all'intitolazione della scuola che lui aveva frequentato, rinuncia a questa possibilità. Io credo che questa sia una responsabilità grande che il sindaco attuale si assume. No, c'è da dire una cosa, che il buon senso, io posso capire solo il punto di vista di dire non è che intitoliamo un qualcosa a Umberto Eco e io dico di no. Questa sarebbe un'opposizione poco capibile. Si tratta di sostituire un nome comunque dedicato a matematico. Però non c'è nemmeno la proposta, perché la proposta che lui ha fatto è di intitolare un polo museale che forse fra 10 anni vedremo. Allora, il problema è quindi che diventa un modo per non titolargli niente. Esattamente. Allora è difficile non pensare che, cioè, Io voglio pensare che sia superficialità e scarsa attenzione. Detto questo, siccome come dire, la proposta è venuta da una comunità che è quella della scuola, mm-hmm. mi sembrava giusto, e se io fossi stato sindaco l'avrei fatto, accoglierla e iniziare una storia. In fondo i luoghi intitolati sono frutti anche del contesto, sì. della storia. Rinunciare alla possibilità di essere la prima città, la sua città natale, che intitola lui una scuola, la scuola che lui aveva frequentato, è un'opportunità persa, lei dice. Un'opportunità persa. Forse si pensa che non sia abbastanza rappresentativo per i nostri tempi, magari preferirebbero intitolarla Maria De Filippi. Ecco, Polo Maria De Filippi. Di Alessandria? No, così. No, ma diciamo che non è fuori di motivazione il fatto che il liceo sia intitolato a Giovanni Plana e che abbia una storia, una tradizione. Io lo capisco. Però qui sul piatto della bilancia c'è l'opportunità di intitolare qualcosa ad Eco che rimane nella sua città natale, oppure rinunciare a questa opportunità, perdere un treno che altri coglieranno. Ma secondo lei può dipendere anche dalla tendenza degli alessandrini ad essere un po' abitudinari, cioè a non voler cambiare quello che è già uno status quo? Diciamo che qui ci si appassiona molto per le... per le fotografie in bianco e nero, per i tempi che furono, e magari si ha scarsa propensione a guardare avanti. Sì, però ex sindaco, io vorrei capire una cosa fondamentale. Sì. Ma a Gianni Rivera avete dedicato qualcosa? No, perché diciamo che Gianni Rivera non è proprio, soprattutto calcisticamente parlando, l'alessandrino più amato, ecco, così. Vabbè, però poi Gianni Rivera è ancora in vita e ci mancherebbe altro. Vabbè, certo, ci mancherebbe altro. No, però non mettiamo, cioè Eco, diciamo che il nome della rosa è il romanzo che è stato non te l'ha passata, l'ex sindaco non te l'ha passata. No, io devo svelare una cosa: il nome della rosa e il pendolo di Foucault sono due dei pochissimi libri che ho letto due volte. Che ho letto due volte. Ma due per volte. Capirli, per capire un po'. Per capirli, perché che ho letto due volte. Per favore, professore, lo interroghi adesso, io la scongiuro. Posso dopo volentieri. Che ha detto questa cosa, gli faccia delle domande. Domande è una prova di verifica. Il nome della rosa, il pendolo di Foucault e Reparto C di Solzhenitsyn sono i due libri che ho letto, i tre libri che ho letto due volte. Due volte. Lo scetticismo è molto, ma diamogliela per buona, guardi. Esatto, anche una giornata di Ivan Denisovich, ma quello è corto, si legge un giorno. Allora vedi che pian piano si scopre che ci sono più letture nello zaino. Ad Alessandro Milan. Scusa, chiariamo che ho detto che ho letto due volte. Già, non in realtà sta tentando di fare bella figura con lei semplicemente perché c'è lei qui al telefono. È un trasformista, a seconda di chi c'è mente. Il vero funambolo è lui. Esatto. Noi la ringraziamo tantissimo. Arrivederci. Maria Rita Rossa, forse l'abbiamo anche sottratta a una lezione degli studenti che sono non credo. I quali saranno gratissimi a Radio 24 a noi per questi 10 minuti, capito? Dispiace un po' per il matematico Giovanni Plana, insomma. Infatti, povero i parenti Plana. Di Plana. Plana verrà completamente, già non lo conosce nessuno, se almeno lo conosceva in più, verrà completamente messo nel dimenticatoio e perso nell'oblio del fiume di Alessandria. Sono dovuto andare su Wikipedia per capire, ho fatto il figo, poi dicendo il famoso matematico, ma ho dovuto matematico Plana. Sì, infatti quando hai detto famoso io ho fatto Adesso Plana, nessuno pensa al povero Plana che verrà nel caso sostituito da Umberto Eco? La vera domanda è, ma se non ci fosse Wikipedia, noi che faremmo? L'altra vera domanda è, ma Gianni Di Rocco quanto avrà ereditato? Questa è la domanda, ma noi siamo i tutori legali, quindi tra poco lo scopriremo. Andiamo, vai tranquillo. Al traffico, va. I funamboli. Ragazzi, fate un podcast con i monologhi di Manera, ma sono il miglior antidepressivo del mondo. No, ma state scherzando. Questo qui non c'ha voglia di fare un cazzo. Questo non lavora, questo non ha voglia di lavorare. Alino, qua dicono che la crisi è passata, ma a me non sembra. Siamo sempre senza soldi e ci toccherà anche noi adesso andare a chiedere l'elemosina. Hachu, hachu, zighi zighi bam boom, hachu, hachu, hachu, zighi zighi bam boom, hachu, hachu. Era questo il pezzo di Mel Brooks. Io non avevo coraggio di fare hachu, hachu, barinda, hachu, hachu. Ho mai sentito come era arrabbiato quello che ha detto, ma stiamo scherzando, ma questo non ha voglia di fare un cazzo. Che era, si riferiva a Gianni sì. Di Rocco, ovviamente, immagino, Si è scelto quel tipo di vita e gli è andata bene perché ha avuto queste due eredità, però insomma. Scusate, però c'è un ascoltatore che ci manda un pezzo del Vangelo ipotizzando, mette: guardate gli uccelli del cielo, non seminano né mietono, né ammassano nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Senti, senti. Forse il nostro crociere è un santo. Che si arrabbia adesso perché la gente non gli dà i soldi, quindi. Dovete vedere Alessandro Milan com'è entusiasta di questo pezzo che è stato mandato. È una delle, gli ha fatto l'effetto di Prince. È una delle scene più belle dei film. No, attenzione, c'è un coup de théâtre, c'è un colpo di scena. All'insaputa anche dei miei due amici Leonardo Manera e Veronica Gentili, voglio lanciare una nuova rubrica, perché qui è il momento in cui facciamo i defurbizzati. Adesso tra poco lo faremo, invitiamo anche quelli che ci ascoltano dall'estero, ma mi avete colpito, vogliamo rispolverare anche una vecchia rubrica. Smettila Peter, lo sapevo. Faccio peggio di Manera con Cannavacciuolo, vengo di lì. E, che lavoro stupefacente, fantasioso, incredibile fate e volete raccontarcelo qui a Radio 24. Un lavoro che ci colpisca, non scriveteci faccio l'avvocato, però per favore. Ma scusami, ma qui vige l'anarchia. Che hai fatto stanotte? Guarda che ti assicuro che escono delle cose fantasiose. Lavori strani, lavori che ci colpiscano, lavori funambolici. Ecco. Autogestione. Vediamo se qualcuno ce ne scrive subito. Scriveteci al 349-238-6666 o via mail funamboli@radio24.it. Stupiteci col lavoro che manco immagineremmo mai esista. E invece sì. Ho azzeccato i congiuntivi? Secondo me no, però statisticamente è improbabile. Richiamate la professoressa. Esatto, Rossa. Subito. Anche perché dopo che hai fatto sta sparata, interrogazione su tutti i romanzi di Eco, non te la leva nessuno. No. Perché poi diciamolo, il pendolo di Foucault io non l'ho letto, ma dico anche sia praticamente molto complicato da leggere, no? Hai capito? E questo incentiva questo i nostri sospetti. L'ho letto due volte. C'è questa pagina del pendolo di Foucault che non avevi in cui, capito niente. No, in cui Umberto Eco fa una pagina straordinaria, devo leggere oggi per la terza volta, sulla numerologia, sull'importanza, è tutto basato sull'importanza della numerologia. Avrà ingolosito i lettori comunque. Guarda, siete veramente. No, più che altro il senso è se lo ha letto lui, nessuno deve lasciarsi intimidire davanti al pendolo di Foucault. Vabbè, caro Peter Bescapè, è il momento del defurbizziamoci. Ora vedi tu se ce la possiamo giocare così, l'ho detto io, oppure se dobbiamo mandare la sigla. Mandiamola. Completa allora, grazie, se possibile. No, completa, no, quella completa, la sigla, adesso si sono mozzati la sigla. È rimasta solo la mitragliata. Sì. Ecco. Defurbizziamoci. Ecco, era meglio solo la mitragliata? Non lo so. Salutiamo Sara, buongiorno Sara. Ciao Alessandro, ciao a tutti. Eccoci, Sara è una furbetta, si sente già dalla voce. E c'è scritto. Sara, devo dire che la tua voce mi piace molto. Quanti anni hai, così, per saperlo? Eccolo subito. 40. Quindi si può fare. Era proprio l'età perfetta che... Attenzione che Leonardo... Sara, che adesso parte subito l'avance. Aiuto. No, aiuto. È una voce molto bella che fa immaginare viaggi insieme con macchine scoperte, la ricerca di nuovi orizzonti. Michele sei all'ascolto? Sta ufficialmente tradendo Michele da Firenze per passare a Sara, il nostro Leonardo Manera. Sara, tu che cosa hai combinato di così furbo nella vita di cui ti vuoi pentire? Allora... Il confessore. Di a padre Milan... Che cosa hai fatto? Dica Sara. Mi dica. Confesso anche se mi vergogno tantissimo. Bene, meglio. Allora, stiamo parlando di 20 anni fa innanzitutto. Mettiamo così. Subito iniziano i puntini sulle i. Così, quindi hai avuto tanto tempo per espiare già in segreto le tue colpe. Assolutamente sì. Dunque, io e la mia coinquilina dell'epoca, universitaria squattrinate... Mm-hmm. Abitavamo a Milano di fianco a un noto locale milanese. Scoprì primo che la sera durante le happy hour era talmente pieno che era possibile sostare al buffet senza di fatto consumare. Per cui provammo la cosa un paio di volte, dopodiché divenne un'abitudine seriale, nel senso che un paio di volte alla settimana, sia per risparmiare, sia perché non avevamo voglia di cucinare, ci guardavamo e dicevamo scendiamo, e scendavamo, mangiavamo e poi risalivamo in casa a berci una birretta. Beh, facevate il vero happy hour. Happy sicuro lì. Cioè, ma neanche prendendo una birra, neanche proprio. No, proprio. Proprio a mangiare. Trovate, mangiavate e ve ne andavate via. Sì, ma stavamo anche un paio d'ore, conoscevamo persone, con nonchalance, insomma. Beh, quel punto... vi godevate per bene l'aperitivo, come giustamente socializzazione, cibo e poi a casa. Certo. Però, capito, conoscendo qualcuno, qualche ragazzo che vi offriva una birra, magari a quel punto uno faceva 30. Pagate voi, dici. Esatto, cioè ci faceva offrire anche da bene. Se offrivano, sì, poteva capitare, se no altrimenti noi non spendavamo nulla. No, se offrivano dicevi no, ma non serve che paghi, ti dico, non serve, magari la prossima volta da un'altra parte. E quindi poi in cosa ti sei laureata, così, per curiosità? In relazioni pubbliche. Ah, beh, giustamente, fatte apprese al bar, impresa diretta e poi... Ha capito bene come gestire le relazioni col prossimo. Siete mai state beccate, cioè dire alla 20ª volta che per 2 ore piantonavate nel locale? Apparentemente no. Apparentemente nel senso che nessuno ci ha mai detto nulla. Ah, benissimo. Quanto avete sottratto, secondo voi, a quel locale così, a spanne? L'abbiamo fatto per circa un anno. Poi, a dire il vero, non ricordo perché abbiamo smesso. Perché non ricordo di essere stata mai beccata. Per cui, fai una media di 10 euro a settimana. 52 settimane, insomma, un bel 500 euro. Poi nella vita ti è capitato poi di andare magari nei centri commerciali, prendere qualche rossetto, altri piccoli reati di questo tipo? No, è fatto che non ho mai fatto più nulla del genere, né prima né dopo. E però giuro. Ti dispiace, rimpiangi quei periodi in cui potevi dare il meglio di te stessa? Un po' sì. Vabbè, Sara, noi comunque ti diamo la patente, cioè, soprattutto Leonardo te la dà per la tua bella voce. La soprattutto patente. Leonardo ti richiama dopo. Esatto, anche. Tanto abbiamo un numero di telefono, cara Sara. Leonardo è un noto stalker da questo punto di vista. Scherzo, sto ovviamente scherzando. Però ha una bella voce, Sara. Però ha una bella voce. Questo, crediamo che tu l'abbia già detto, Leo, o mi inganno? Comunque, Sara, a te e anche alla tua amica, così puoi chiamarla. Ecco, posso dire il nome? Sì. Gloria. Gloria, a Sara Gloria. E Gloria, però la diamo solo a te la patente di defurbizzata. Vale anche per Gloria, però. Sara, ma poi... vuoi anche dirci il nome del locale di Milano, così ti vengono a cercare sotto casa? Meglio di no, che stiamo dando troppi indizi. Grazie Sara davvero per essere stata con noi. Allora è il momento questo dei defurbizzati. Scriveteci o chiamateci 800 24 00 24, ma anche, ripeto, un lavoro incredibile. Funamboli, io devo fare un piccolo outing. Secondo l'hai fatto voi anche tu. Veronica l'ha fatto. Ho cercato di tenere una plomba, non l'ho detto durante la telefonata, ma come posso non dirlo adesso? L'hai fatto anche tu. Sì, sì. Ma sai che l'aveva fatto anche lo faceva anche la mia Francesca, mi ha detto. Una volta l'aveva fatto a Barcellona, dove metteva, si contavano le bandierine delle tapas, le aveva infilate nella maionese. Sì. Lo vedi? Insomma, ho capito che l'unico pirla sono io, quello che ha pagato donna sempre astute. L'aperitivo. Vabbè, ma vabbè. Perché non sei un ragazzo così che si adatta, che si attrezza, inventiva. Dai, inventiva, caro Leonardo. Dai, dopo il traffico c'è un personaggio straordinario che è venuto a trovarci. Già lo vedo che si aggira, è Sprecacenere Donato tra poco. Maccherone, m'hai provocato e io ti distruggo adesso, io me ne magno. I funamboli. Veronica, il pesce. Se non mi sbaglio, stavi in via canonica. Monica. Dicevi sempre io voglio farmi morire. Monica? No, ma... E invece bestemmiavi contro i pre. Ti ricordo ancora come un primo amore. Lacrime e dolore, fingesti per me. Stasera deve cantare Iannacci. No, però questo non lo facciamo. No. Veronica non c'è. Ma come? Eh no. Mamma mia. ne abbiamo tante altre. Anche uno di Pino Donaggio che si chiama Mario, che canta Iannacci, che è una delle mie preferite. Di Pino Donaggio, cantata da Iannacci. Ma quindi canti stasera? Sì, sì, le canzoni di Iannacci facciamo. Ah, beh, esatto. Peccato che non fai Veronica. Ma sono un po' offesa. Sì, hai ragione. Non puoi sentirmi tutti i giorni, poi vai lì e non canti Veronica. Vabbè. Comunque, cari ascoltatori, guarda, c'è un'ascoltatrice, un ascoltatore che scrive: fantastica Veronica, se uno non paga le tasse è un criminale, se uno ruba il cibo all'aperitivo è inventivo, il moralizzatore. Tra l'altro, parentesi, sai che la canzone Veronica fu scritta da Iannacci insieme a Sandro Ciotti, ti ricordi? Sì, davvero? Fu il coautore della... Faceva le radiocroniche più belle, eppure incredibile, le radiocroniche più belle del mondo. Comunque, Leonardo Manera, adesso spostati un attimo perché dobbiamo dare spazio a un personaggio che è venuto a trovarci. Sono dal primo giorno che attendevo il suo arrivo dalla lontana Calabria. E me ne parlavi sempre di questo spreca cenere Donato, che è con noi. Buongiorno. Grazie anche a 24 che mi dà la possibilità di venire a fare questo appello. Sì. Che sono spreca cenere Donato. Sono venuto a leggere una email alla mia ex fidanzata Marilena, che mi ha lasciato perché hanno passato i provini per fare Uomini e Donne di Maria De Filippi. Che per fare Uomini e Donne ho anche fatto la scuola di dizione e recitazione con il maestro Santuzzo, che mi ha imparato la dizione, recitazione, l'accento grave, l'accento acuto. Insegnato. Per esempio, se dico Giovanni è moribondo, l'accento è grave perché è moribondo. Ma no, se mi ha insegnato il maestro Santuzzo, mi ha imparato Santuzzo, scusate, da dire cane, Milan, lasciami andare a leggere l'email, mi fa schifo come persona, ecco, Milan. È partito. Poi il maestro Santuzzo mi ha anche imparato dove si mette la A con l'H, senza H, si mette la A con l'H quando è verbo avere, che uno è una cosa. Perciò, per esempio, se io dico mio cugino ha un pisello di 40 centimetri, la H non ci vuole perché non è vero che ce l'ha di 40 centimetri. Ma non è proprio così. Lì ti spacco la testa, Milan. È un po' aggressivo, Veronica. Ti fai schifo come persona, cane. Oddio. Grazie. Marilena. Sono sprecatenere Donato, il tuo ex fidanzato. Ti scrivo per dirti che da quando tu mi hai lasciato io ti manco. A me invece mancano le cose che facevamo quando eravamo a letto insieme. Che tu guardavi il tuo Samsung Galaxy e io il mio iPhone, che poi ho preso Huawei. C'è da ridere che ha ancora il Motorola con l'antenna, che tutte e due fate schifo come persone. Ecco, grazie. No, ma perché? E poi mi mancano le vacanze che facevamo insieme, come quando siamo andati insieme ad Abano Terme, che tu ti sei stupita che gli abbanesi parlavano così bene italiano. Poi no, no, ma... sempre andare a rompere sto cane qui davanti, Milan. Schifoso, ma... Milan. Oh, lui ti taglia i capelli con la fettatrice, Milan. Passiamo i toni, eh. Non... E poi alle terme tu hai detto: vado a fare il bagno turco da sola. Alla fine ti ho chiesto, ti ha fatto sudare. Tu mi hai detto: il bagno così così, il turco parecchio. Marilena. Sono cose che capitano. Noi ci siamo lasciati perché tu volevi un figlio e io no. Io non voglio figli perché quando nasce un figlio le coppie poi si lasciano. Come mio cugino, che quando hanno avuto un figlio poi si sono allasciati. Lasciamo stare che mio cugino non era il padre, ma è andata così. Ed ora una bella notizia. Oh. Al centro commerciale Arcobaleno, tutti i colori del shopping, ho conosciuto una ragazza bella con le misure da ragazza bella. 90, 180, 240. Sto qui davanti che ride, sarai bello tu, vengo lì, ti metto i petardi nel naso così te li raddrizzo, Milan. Mi fai schifo come persona. Ma guarda che c'è anche Veronica Gentili. No, io sono lontana. L'ho portata al ristorante del centro commerciale Arcobaleno, lei ha mangiato tutto il menù, anche quello di carta, poi in macchina ha vomitato. La bella notizia è che la macchina è di mio cugino. Per salutarti, Marilena, siccome che mi manchi, ti saluto con una poesia scritta da io. Da me. L'ho scritta io, cosa hai incontrato di sempre? L'ho scritta io, vuol dire che l'ha scritto tu, schifoso, Milan, no, cane! No, spacco la testa, Milan, mi ha rotto veramente marroni, cane, Milan! Va bene, ho capito. Alessandro, non lo far arrabbiare, lo vedi che è così. Comunque, sì, Marilena, tu per me sei come l'acqua pura che sgrogga dalla sorgente e arriva al mare. Sfortunatamente però io non sono l'unico che ti ha imbottigliato. È finita. Spero che Marilena mi risponda qui a Radio 24. Così spero anche che mi risponda, così poi così possiamo tornare a buono termine insieme. Io vado via, grazie per l'ospitalità a tutti, al signor Gentile, tranne questo cane di Milan, mi fa schifo come persona. Milan, arrivederci signor Donato, spacco la testa a tutti. C'è Peter Bescapere già che la saluta, magari adesso lo fate accompagnare anche Lorenzo Nespoli in redazione, Elisabetta Fusconi, Elisa Pancaldi. Vengo lì, spacco la testa a tutti, metto la colla nelle orecchie, petardi nel naso, ti tolgo i denti con la sega circolare. Signori, il nostro sprecacene Donato, il nostro Leonardo Manera, va bene. Vabbè, grazie Peter Bescafè e Alessandro Milan. Siamo quasi in chiusura oggi. Sì, manca un minuto. Ti ha fatto del male, sciocchina? No, c'è però un ascoltatore dice che Iannacci, che è vero, era un medico, era il mio medico condotto a Milano. Ogni visita era uno spettacolo, effettivamente. Massimo, ce la fai in 30 secondi? Sì, Massimo da Milano, buongiorno. Così mi fate finire in tristezza. Un'altra considerazione. No. Beccaria ha fallito, considerando tutto quello che sta succedendo, sarebbe ora che si tenesse presente che il sistema giudiziario non può solo puntare al recupero, ma deve cominciare a pensare anche alla protezione di quelli che stanno fuori. È triste pensarlo, ma credo che i tempi e la storia abbiano superato le valutazioni di Beccaria. Cioè, ma rispetto carcere, a cosa stai, questo? Sul carcere, immagino. Rispetto al sistema giudiziario carcerario. Ah, in generale. Il concetto solo del recupero. Mm-hmm. Purtroppo delle volte il recupero non è possibile. Proteggere anche quelli che sono. Beh, insomma, il caso di quello che ha violentato tante adolescenti a Genova e dopo 8 anni adesso pare altrettante a Milano, è incredibile. Comunque, suppongo si riferisse a quel caso. Penso di sì. Chiudiamo con Iannacci oggi alle 21. Se volete, Leonardo Manera canta Piazza del Cannone. E il castello. La vita. Ciao. E la vita la bella, la bella. Bella. Arriva in ritardo. Te l'ho detto. Che miseria. È finita la festa.